Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un libro, diciamo così, storico, che viene ripubblicato dopo 20 anni dalla sua prima edizione. Il libro è il libro Cleptocrazia, il meccanismo unico tra corruzione ed economia politica. L'autore è Giulio Sapelli. Buonasera, Giulio Sapelli. Buonasera. Giulio Sapelli è una voce nota anche di Radio 24, ospite spesso di Focus Economia e anche, quando scrive qualche libro, della nostra rubrica. È professore ordinario di storia dell'economia all'Università di Studi di Milano, editorialista del Messaggero, e con questo libro ripropone un tema, quella della corruzione, del furto, della corruzione in politica, che era esploso all'inizio degli anni 90 e che appunto aveva dato origine a questo libro, ma che è rimasto, nonostante questo libro, possiamo dirlo, è rimasto a fare un po' da contorno a tutta l'attività politica anche adesso. Perché è ancora d'attualità questo libro? Lo chiediamo direttamente a Giulio Sapelli. Ma innanzitutto vi ringrazio di avermi ospitato questa bella trasmissione, grazie a lei dottor Fabi. Ma credo che, io devo dire, è stata un'iniziativa dell'editore di ristampare dopo 20 anni questo libro, perché, come ha detto lei, ahimè la corruzione è un tema sempre attuale. Devo dire che forse due sono le cause per cui questo libro viene ripubblicato, è stato anche tradotto all'estero, ma non era mai stato ristampato in Italia. Beh, probabilmente perché è un libro un po' difficile, è un libro di teoria della corruzione, e la tesi è che la corruzione è fisiologica alle associazioni umane e diventa visibile quando da fisiologica essa diviene patologica, cioè mette in discussione la stessa organizzazione della società civile, aggravandone i costi, oppure perché la denuncia della corruzione serve per il conflitto, cioè serve per danneggiare avversari, no? Quindi quello che fa problema non è l'esistenza della corruzione, ma la sua intensità e soprattutto la sua visibilità. Poi c'è una seconda tesi, che è quella che sostanzialmente ha determinato che in Italia non fosse più ripubblicato, mentre all'estero ha avuto parecchia fortuna, perché la tesi che io sostenevo allora era che la corruzione non cominciava dalla politica, ma cominciava soprattutto dai grandi gruppi industriali italiani, soprattutto privati. Quindi questo c'era anche una parte empirica che dimostrava questo. Questo naturalmente non era gradito. Io quel periodo, quando pubblicai quel libro, ero presidente italiano di Transparency International. Tutti sanno che cos'è questa organizzazione di lotta alla corruzione internazionale, e quindi avevo toccato con mano l'intensità della corruttela nei nostri grandi gruppi privati. Tesi che non era molto gradita. Che allora dire. Tutti pensavano che fosse la politica, cioè certo. I politici erano gente che sfruttavano la corruzione, soprattutto per il finanziamento dei partiti all'epoca. Ecco. Beh, ci voleva anche la politica, perché bisogna pur corrompere qualcuno, dubbio, se non si corrompe. Però di qui il titolo che lei giustamente ha pronunciato intero, cleptocrazia è il meccanismo unico della corruzione tra economia e politica. Ecco, quindi ci sono due i vettori, non c'è solo quello politico, c'è anche quello economico. Dei grandi gruppi privati. Ecco, quindi dato atto all'editore Angelo Guerini di aver ripreso questo libro, che era stato pubblicato a suo tempo da Feltrinelli, di aver ripreso e riproposto questo libro che appunto è un classico, ma come dice lo stesso editore in una nota introduttiva è di grande attualità. Però resta il fatto, Sapelli, che il panorama è cambiato. Appunto, i grandi gruppi industriali e finanziari di 20 anni fa, di 25 anni fa, non ci sono più. Alcuni. Esatto. E allora vale la parte del libro che c'è, meccanismo unico, appunto, che spiega l'intensità della corruzione fatta dai politici. Io già anticipavo un tema che, col crollo dei grandi partiti, che già era evidente, veniva fuori questa mia teoria che avevo elaborato sui miei studi sull'Europa del Sud, della distruzione dei partiti da parte dei gruppi che io chiamavo neocacichisti, cioè di capi personali che organizzavano le risorse, le varie fondazioni, no? Che oggi non finanziano più i partiti, ma i politici finanziano se stessi. Questa è una gran bella differenza, accidenti. Sì, però diciamo che è una differenza che socialmente non ha fatto cambiare poi l'efficienza complessiva della società. No, anzi l'ha peggiorata, perché l'ha disgregata e ha diffuso la corruzione in un modo epidemiologico. Quindi devo dire, ringrazio Guerini, che oltre ad essere un editore è un intellettuale, perché proprio penso, tramite la mia modesta persona e il mio libro, ha voluto dare un contributo, un segnale d'allarme Fa segnalare che le cose sono peggiorate rispetto al 94. Ecco, infatti, di allora. Lei nella postfazione di questo libro, che è un articolo che ha scritto per il Sussidiario, dice che tutto naturalmente diviene caotico, disordinato, convulso, ma anche facilmente visibile. Quindi questo fatto che in fondo la commistione tra legalità e illegalità sia un po' la luce del sole non turba molto le coscienze delle persone e degli operatori politici soprattutto. Ecco, qui lei introduce un altro elemento terribilmente attuale, cioè che è la caduta di ogni sanzione morale. Un tempo tu non avresti fatto sposare tua figlia a un corrotto o uno che era stato in carcere per corruzione. Oggi probabilmente, dato che è ricco, la sposi di buon grado. Ecco, è un paradosso naturalmente. Assolutamente. Ho visto, fino a un certo punto ho visto matrimoni di questo tipo. Ecco. Quindi è caduta ogni sanzione morale. Ormai non fa più... Cioè non ti rende più un paria come devi essere se sai che tu hai la gente che sanno che sei corrotto. Sei un uomo potente, questa è una cosa che fa paura, fa paura. Ecco, c'è un altro elemento che nel libro è poi spiegato molto bene, del ruolo, diciamo, delicato, perché qui tocchiamo un punto caldo, il ruolo della magistratura. Un ruolo della magistratura che è stato visto all'inizio come un ruolo, diciamo così, salvifico, che era quella che poteva in qualche modo reprimere e quindi fare in modo che il meccanismo della corruzione si inceppasse, ma che poi è diventata parte del sistema. Non dico che la magistratura sia corrotta, ovviamente, ma è parte di un sistema in cui anche queste cose hanno una loro, se non legittimità, però una loro presenza. Sì, soprattutto chi sviluppa questa tesi è l'amico Ludovico Festa, che fa una prefazione, un'introduzione. E poi, come lei dice, così mi ha fatto l'onore di ricordarmi, questo articolo del Sussidiario in cui io mi faccio un po' un'autocritica, dice: avevo sottovalutato il ruolo della magistratura e l'avevo attribuito solo un ruolo benefico, e poi soprattutto avevo sottovalutato profondamente, ma allora non mi era ancora chiaro, i collegamenti che la magistratura italiana ha con le potenze internazionali che hanno tutto l'interesse a disgregare e indebolire il nostro paese. Ecco, quello che nel 94 appariva e era un dubbio, adesso sappiamo che è una certezza, perché voglio dire, guardiamo cosa sta capitando in Brasile con la Rousseff, che viene, si fa l'impeachment all'unica politica che non ha avuto nessun avviso di garanzia, tutti i giudici che hanno provocato questa cosa, hanno spinto per portare avanti Temer, che sarà il nuovo presidente, guarda caso si sono formati negli Stati Uniti d'America e tornati in Brasile hanno messo su questa operazione molto complessa, ma che però è un'operazione che non ha nulla a che vedere con la lotta alla corruzione. Ecco, ecco, in questo senso la magistratura però ha un ruolo operativo, però appunto in tutto il libro si mette in evidenza l'esigenza che la società deve prevenire questi fenomeni più che combatterli ovviamente è necessario, ma prevenire è altrettanto e forse più importante, però per prevenire ci vuole quell'esigenza appunto di moralità complessiva che non appare nel processo democratico attuale e che emerga con molta chiarezza. Che cosa si può fare per ritornare a una società in cui ci sia una sanzione sociale prima che legale alla corruzione? Bisogna fare opera di testimonianza, di integrità personale, se si svolge un ruolo pubblico o privato, soprattutto quando si ha la responsabilità di dirigere delle persone. Diciamo che oggi sono caduti i maestri, il maestro non è, come diceva Jung, colui che sa, sapientone, ma è colui che dà una dimostrazione. Bisogna ritornare a fare opera di testimonianza, per il cristiano questo dovrebbe essere evidente, no? Ma anche per i non cristiani, testimonianza civile, integrità civile. E ci vuole una rivoluzione di tipo morale, ci vuole una rivoluzione morale, bisogna ricominciare a fare il proprio dovere e poi a denunciare queste false battaglie per la corruzione, che altro non sono molto spesso che lotte tra gruppi di potere, che usano il maglio della corruzione come un'arma per abbattere gli avversari. Ecco, bisogna invece, in questo diciamo che la magistratura ha perso molto della sua autorevolezza e della sua legittimazione, perché a molti appare come non autonoma, ma invece dipendente da dei gruppi di pressione. Questa La riforma della magistratura è, oltre alla rivoluzione morale di cui facevamo cenno, la prima cosa da fare. Dividere le carriere è la prevenzione principale che dobbiamo fare. Bisogna fare come in tutti i paesi civili, dove conta la società civile, la magistratura è un organismo autonomo con carriere distinte tra il giudice e quello che invece fa il processo ispettivo. Ecco, in questo senso anche altri parti sociali hanno delle grandi responsabilità, anche di testimonianza personale, ma anche collettiva, come penso per esempio al sindacato che viene evocato da Lodovico Festa, proprio come capacità di affrontare i problemi e non di fronte ai problemi di avere come ultima istanza sempre quella di rivolgersi al pretore, cioè di costruire qualcosa piuttosto che cercare sempre una sponda, diciamo così, giustizialista. Su questo sono d'accordissimo. Io la penso da uno degli modo diverso sul sindacato da Festa, che è uno degli amici della mia vita, quindi una persona da cui imparo sempre. Io sono credo che i sindacati devono esserci, devono rafforzarsi, ma devono cambiare profondamente. Questo è stato devastante, l'uso dello statuto dei diritti dei lavoratori, cioè aver affidato le relazioni industriali agli avvocati e ai giudici è stato deleterio. Un ordinamento intersindacale rafforza le parti e, come lei credo sia d'accordo con me, come ha già detto sostanzialmente nella domanda, il sindacato deve avere una sua forza morale più che una forza giustizialista. Questo è l'elemento di fondo. In fondo il problema è quello di costruire una società e non solo di porre dei limiti o porre delle leggi e dei divieti. Insomma, la società dei divieti è una società sicuramente in cui ci vogliono delle regole, ma le regole, come diceva un tempo Cicerone, sono fatte per i malviventi. La società dovrebbe essere una società di onesti che va avanti per forza di una moralità più che per forza di regole. Ma mi fermo qui e ringrazio Giulio Sapelli di essere stato con noi questa sera. Abbiamo parlato della società italiana, dell'evoluzione della società italiana in questi ultimi 20 anni, grazie a un libro molto interessante che è Cleptocrazia, il meccanismo unico della corruzione tra economia e politica, edito da Guerini e Associati. Sono 176 pagine per 18,50 euro. Grazie a Giulio Sapelli. Grazie infinitamente a lei e grazie agli ascoltatori per averci ascoltato. Comprate il libro. Grazie mille, grazie anche a Filippo Reggi in regia, a Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.